Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Oltre la metà degli italiani rinuncia ad andare in ferie a causa delle difficoltà economiche dovute alla crisi. Le vacanze estive si avvicinano e l'ADOC diffonde un vademecum di consigli su come risparmiare circa il 30% della spesa prevista. Viaggiando con un last minute si può risparmiare fino al 30%, prenotando in anticipo il volo o viaggiando con una compagnia low cost fino al 40%. In comitiva i risparmi sono in media del 30%. Per chi viaggia in auto la soluzione sono le pompe bianche, tra i 5 e i 7 centesimi al litro di risparmio. Fare la spesa prima di partire salva il 40% del costo totale. L'ADOC infine consiglia di fissare un budget delle spese e di scrivere una lista dei prodotti indispensabili prima di partire. Ahimè, quest'anno si presenta problematico. Non ci saranno più nemmeno le pompe bianche ad alleviare le fatiche di un anno di ristrettezze, di un anno di tirare la cinghia, che potevano essere alleviate da quello che è il progetto di una vacanza lunga, corta, modesta, mesta, lussuosa, fantomatica, intelligente, chiamatela come volete. Però gli italiani ormai sono abituati da decenni che in questo periodo già più o meno tutti avevano programmato cosa fare l'estate. Ma fosse anche andare a passare una settimana in campagna nella casa dei nonni, o fosse anche organizzare un viaggio in tempo con le dovute cautele per spendere il meno possibile. Per quest'anno invece il verdetto sembra catastrofico. Gli italiani sembra quasi che ancora non abbiano pensato a cosa fare, ma non perché non ci sia nella loro intenzione di prendersi come consuetudine, come nel DNA da tantissimo tempo, un periodo di riposo, di vacanza, di uscita dal mondo della consuetudine, perché proprio non ce la fanno, non c'è proprio il pensiero, eppure eravamo abituati diversamente. Mare, spiaggia e alberghi, così per chilometri e chilometri. E la riviera adriatica della Romagna, la costa d'oro del turismo italiano, come si presentava la scorsa estate. Rimini, Cattolica, Cesenatico, Riccione, nomi che molti turisti stranieri conoscono quanto Roma e Napoli. Circa 17 milioni sono state le presenze l'anno scorso, con almeno 4 stranieri su 10. Secondo le previsioni degli esperti, l'incremento quest'anno sarà del 10%. Qui, più che in altri posti di villeggiatura, il turismo è industria. E come ogni moderna organizzazione industriale, di estate in estate si trasforma e si potenzia. Di dove siete voi? Io sono di Austria, vicino a Salisburgo. Io di Cattolica. Io di Perugia. E come hai conosciuto questi bambini? Io vengo da tanti anni qua e questo è il figlio del Magnino. Noi giochiamo sempre insieme. Ecco, fra le liturgie del antico narrare attraverso la televisione, ma attraverso anche i cinegiornali, di quello che era lo splendido sogno della crescita italiana, c'è sempre immancabilmente l'intervista ne ha fatta sulla spiaggia e la riviera. Questo è un servizio degli anni 60 in cui c'era questo straordinario mix fra i tedeschi che scendevano verso il bel paese e fra gli italiani che comunque una volta l'anno si concedevano questa vacanza. Beh, oggi le cose sono leggermente diverse. Abbiamo letto dei dati che ci hanno abbastanza spaventato in questi giorni, e quindi su questo noi chiamiamo questa mattina il presidente Assoturismo Confesercenti, Claudio Albonetti. Buongiorno. Buongiorno a voi. I titoli erano abbastanza inquietanti. Vacanze non le farà quasi la metà degli italiani. Come siete arrivati a questa conclusione? Beh, attraverso un sondaggio SV di Confesercenti, adesso attraverso SVG, dal quale è emerso purtroppo in maniera abbastanza allarmante che quest'anno saranno poco più di 25 milioni gli italiani che potranno permettersi una vacanza, quindi in caduta libera, 5 milioni meno dello scorso anno. Quello che poi fa paura è che 14 milioni degli intervistati ha dichiarato chiaramente che non potrà fare vacanza a causa della crisi, il che è francamente molto molto allarmante. Ecco. Noi passiamo da una percentuale sì. dell'80% di vacanzieri nel 2010 ad una percentuale di un 58% scarso, che è tutto dire. Ecco, quello volevo dirle proprio. È qualche anno che si parla comunque di una crisi delle vacanze, poi bene o male si dice sempre la solita frase, si cavalca il solito luogo comune, beh vedi, alla fine dicono che non c'hanno i soldi, poi guarda, le strade sono vuote, i ristoranti sono pieni, ma quest'anno mi sembra che in effetti vada molto oltre quelle che possono essere delle prudenziali previsioni di crisi. Sì, sì, quest'anno ci siamo veramente in pieno. Lei dice bene, era qualche anno che registravamo uno 0, qualcosa in meno, ma tutto sommato la barca andava. Adesso invece siamo quasi vicino al blocco. Intendiamoci, coloro che possono permettersi comunque di fare una vacanza, sì, hanno diminuito di 2 giorni qualche euro in meno, si passa a 961 euro pro capite circa invece dei 1056, ma questo dice poco. Il fatto è che proprio oltre la metà degli italiani non potrà fare la vacanza. Ma vede, c'è un dato che secondo me è inquietante, che quasi il 60% degli intervistati dichiara che la vacanza la farà per motivi di riposo, passeggiate, relax, attività culturali, mentre solamente per un 20% si può parlare di divertimento o di buona tavola. Quindi diciamo che la vacanza è vista proprio come un bene di prima necessità dell'individuo. Addirittura quest'anno in questo sondaggio è emerso un altro dato che non conoscevamo prima, che un congruo numero di intervistati ha dichiarato che pur di fare la vacanza ricorrerà al credito, ossia si indebiterà pur di fare una vacanza. Beh, questo non è che ci faccia allegria, perché già mi ricordo che un paio d'anni che parliamo del vorrei ma non posso, di fare il passo più lungo della gamba, e già se ne fanno tanti, se ne sono stati fatti tanti, se per rimanere comunque in uno status sociale accettabile, perché poi alla fine è questo, perché la vacanza fatta su credito è perché non si vuole rinunciare comunque a dare l'idea o conservare in se stessi l'idea o autoconvincere dell'idea che in realtà nonostante la crisi non si entra in un ambito generale di mestizia, rinunciare a qualcosa a cui si è abituati come una pausa rispetto a una routine ininterrotta durante l'anno è sicuramente molto difficile. 800 24 00 24, quello vorrei sapere questa mattina è come vi state regolando voi che ci ascoltate. Siete convinti che l'indicazione di Confesercenti riguardi anche la vostra situazione individuale? Avete avuto altre idee o anche voi vi ponete il problema, dice guarda, siamo già arrivati al momento della dichiarazione dei redditi e nel budget familiare non abbiamo nemmeno considerato che si debba fare vacanza. Maria, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è un piacere sentirla. Io sono camperista, non ho scelto il camper per un fattore economico, ma bensì per un stile di vita. Io viaggio e vado via dall'Italia nel mese di agosto per il caos in cui il mio paese praticamente sotto le vacanze sta. Quindi per lei non cambia niente, Maria, esattamente come gli altri anni? Sì, per me non cambia nulla, in effetti. Volevo solo fare una considerazione da camperista, evidentemente, che in Europa, in paesi forse un po' più progrediti rispetto a Germania, Francia, per non parlare dei paesi del nord, la Danimarca e quant'altro, cioè si vive una situazione completamente diversa. Da noi ormai i campeggi sono villaggi con prezzi vicini quasi, non dico agli alberghi, ma insomma molto sostenuti. In questi paesi del nord esiste un'altra totale realtà. Intanto non siamo visti come dei fastidiosi girovaganti che deturpano, non spendono e quant'altro. Dei taccagni girovaghi, come dicono, vedi, quelli col camper fanno presto, non spendono nulla, si fermano. Questa è l'idea comune, ma non è poi così. Io sono penso che ognuno sia libero di fare quello che meglio crede. Esatto, io sono stata sul Trasimeno questo weekend, ho fatto 2 passi fuori e ho girato nella mia bella Umbria, ma non è che non ho speso, sì, ho per dormire, ho una casa dietro come le lumache, ma per il resto sono attiva a livello dei commercianti. Non so se lei sia d'accordo, ma lei non si deve sentire in colpa perché no, non va a mangiare il pesciolino fritto a Castiglion del Lago, sono fatti suoi. Ci vado spesso. Però volevo dire, l'importante è che uno abbia la scansione rituale del proprio tempo, che è fatto di un tempo di fatica, di lavoro, di alcuni momenti di pausa. Se togliamo anche le pause diventa uno stress. Andiamo Sergio, Sergio. Buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Noi abbiamo avuto un'esperienza lo scorso anno che ci è piaciuta, delle parole povere. Noi siamo tutti una decina, un gruppo, che si chiama moglie, chi è singolo, una cittadina, un paese, Valvaraita. Dunque, qui noi ci organizziamo, ognuno ha i suoi compiti, uno fa il cuoco, l'altro guarda l'orto. Ma cos'è, dove andate però? Scusa, mi è perso. Non mi piacerebbe dire comunque Ponte Chiarale. Ma cioè il tipo adesso non mi interessa. Spenga la radio però, se no non la radio l'ho spenta. Beh, allora c'è un telefono in viva voce. Sì. Allora noi abbiamo avuto l'esperienza lo scorso anno con pochi euro, ci siamo divertiti e non ci sono rette che girano per non incorrere sanzioni di agriturismo, così siamo ospiti e poi ognuno ha il suo compito, due persone fanno il cuoco, uno fa la ma dove andate? Non ho capito il posto dove andate. Ponte Chianale. Sì, ma cos'è, una casa, un albergo? È una cascina vecchia, non un albergo, non si potrebbe fare l'albergo. Ah, avete preso una cascina e vi... No, è un nostro amico che abita lì. Ah, ve l'offre. È rimasto vedovo e lui mi trova tutte queste stanze, non si poteva fare. E noi siamo loro ospiti, siamo tutte le stanze e poi durante l'inverno andiamo a imbiancare le stanze così, e poi ci raduniamo. Vabbè, diciamo che la vostra è una logica di recupero. Noi tutti abbiamo probabilmente qualche amico, qualcuno che potrebbe essere in grado di dare accoglienza, ospitalità o cambio della casa e come ha detto il nostro ascoltatore, c'è un'organizzazione collettiva comunque per rompere con la consuetudine del tempo del lavoro. Ecco, dalle prime telefonate è già venuto fuori l'arte di arrangiarsi, perlomeno di non darsi per perdute. Sentiamo Paolo. Pronto, buongiorno. Sì. Ascolti, io sono uno di quelli che vorrebbe andare in vacanza, ma poi vado a vedere il traghetto per la Sardegna, cioè inavvicinabile, solo il traghetto costa una cifra. La Grecia, così tanto in crisi, quattro persone ci vogliono 4.000-5.000 euro. Cioè, a un certo punto, se anche io ho provato per curiosità a tenere i prezzi degli hotel italiani, di alcuni alberghi italiani dell'anno scorso, quest'anno sono aumentati. Cioè, si lamentano, ma qua nessuno cerca di andare incontro a chi vuole andare in vacanza, cioè pensano sempre a ingrassarsi di loro e poi non si possono lamentare che c'è crisi. Adesso sentiamo, no, dunque lei però, parliamo non per stati d'animo ma per dati precisi, lei ha confrontato alcuni prezzi rispetto, poi non è che voglio far salvadanaio adesso, l'idea è un'altra, l'idea è di capire come in realtà di fronte a questa crisi si trovano soluzioni alternative. Lei dice che il problema è di chi non va incontro al momento di crisi, non abbassa i prezzi e non permette alle persone comunque di fare una vacanza. Questo è il suo punto di vista comunque. Sì, esatto. Cioè, che io penso come in tutti i settori, se uno cerca di attirarlo il cliente, non di perché se no uno prende il Mar Rosso, con 1.700 euro, va in quattro e quindi è chiaro che... Allora si è già risposto, scusi. Sì, ho capito, però se poi gli aggregatori italiani si lamentano e non fanno niente, allora non mi vengono qua a dire vabbè, la sentiamo, gente non va in vacanza. Sentiamo Claudio Albonetti di Confesercenti. Ecco, gli ho dato un primo quadro. Da chi si arrangia, fa la vacanza risicata facendo necessità virtù, chi ha usato il camper, quindi si continuerà ad andare sempre con il camper, però lamenta il fatto che in Italia non ci siano forme di accoglienza modesta, a poco prezzo, low cost, e poi quest'ultimo signore che era un po' polemico dice che secondo lui ci sono i prezzi troppo alti. Ma guardi, sarei bugiardo se vi dicessi che non vi aspettavo su questo argomento. Allora, le riviere in generale sono... praticano prezzi tra i più bassi in assoluto, in Adriatico anche di più. Voglio dire una via, adesso non ho capito il periodo di soggiorno che intendeva fare l'ultimo signore che ha telefonato. Noi siamo in una situazione in cui le strutture ricettive in maniera generalizzata stanno contenendo i prezzi, spesso anche abbassandoli. Dove non li abbassano aumentano i servizi, il che contiene sempre il prezzo. Tanto per farle un esempio, 15 giorni di vacanza sulla Riviera Adriatica a 3 persone, o se ci sono due bambini piccoli, non va oltre i 2.300-2.400 euro nel periodo di altissima stagione. Siamo mediamente tra i 60 e gli 80 euro al giorno, pensione completa all inclusive. Beh, non mi sembra proprio che... È vero, questo discorso dei prezzi alti talvolta si accompagnano però alle città iperrichieste, come i centri dell'arte, della storia, della cultura, dove se uno vuole soggiornare vicino al Colosseo, evidentemente vista sul Colosseo o vista sul Canal Grande, evidentemente ha questi prezzi qui. Ma per carità, non diciamo che le strutture ricettive italiane, specialmente nelle riviere, sono care, perché non è così. Oltretutto ormai tutti praticano l'all inclusive, quindi il prezzo è chiaro, non ci sono sorprese, eccetera. Non sarà anche, mi scusi, Albonetti, stavo riflettendo fra le varie ragioni, che oggi è anche più difficile, almeno parzialmente più difficile, accedere a una sorta di mercato, diciamo chiaramente clandestino, i famosi affitti al nero, che era, diciamo, la maniera più usuale, era talmente usuale che nessuno ci vedeva l'aspetto truffaldino, però uno cercava, andava all'agenzia, ti presentava una persona che affittava la casa, sempre un omettino che aveva una bella casettina che si era fatta negli anni in cui si poteva farla, te l'affittava a buon prezzo, ma in realtà la maggior parte dei soldi li voleva cash in mano. Oggi ci stanno un po' più attenti. Ma guardi, l'ha detto lei, se un fenomeno del genere esiste, e io non ne ho notizia, semmai nelle abitazioni, nel mercato. No, nell'abitazione, sto parlando delle abitazioni private. Nel mondo del ricettivo alberghiero non esiste assolutamente, insomma, è tutto statisticamente. Ma lì è logico che non esiste il ricettivo alberghiero. Dicevo, però c'era una sorta di ammortizzatore di vacanze, che era le persone che la casa la usavano un mese loro, un mese l'affittavano, cercavano sempre comunque in qualche maniera di farlo senza doverci pagare per forza anche le tasse. Sì. Questo poteva anche succedere in passato, ma vede, adesso se uno si muove su un lungomare di qualsiasi città di villeggiatura, balneare, montana, eccetera, vede i cartelli affittasi anche nel periodo di Ferragosto. Siamo proprio con un'utenza in caduta libera, come dicevamo prima, quindi cosa vuole? Questo è vero, questo è vero, posso dirlo per esperienza personale. Se capita anche di decidersi all'ultimo momento, visto che così non si era programmato e via dicendo, è facile anche trovare sotto Ferragosto traghetti e ospitalità negli alberghi quando prima era assolutamente impossibile. Sentiamo Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo semplicemente far presente una considerazione che non so se valga come carattere generale, sono partito da me ma poi ho sentito anche altri che la vedono come me. Chi ha un lavoro come il mio, abbastanza a contatto con le aziende, quindi vive da ormai 2-3 anni situazioni drammatiche di licenziamenti, diciamo di depressione, io ho sentito proprio, e l'ho confrontato anche con altri, la scarsa voglia di andare in vacanza, cioè come dire, la vacanza è anche bella perché segna un momento di rottura, no? Dire ok, ho lavorato, mi sono impegnato, ho conseguito qualche risultato, adesso finalmente mi godo il momento in cui mi curo le mie cose, ecco. Io ho pensato che fosse solo una cosa mia, poi in realtà parlando in giro sento che tanti dicono guarda, il massimo che faccio è mi chiudo in casa e leggo qualcosa, ma non ho voglia neanche di pensare a come organizzarmi. Ripeto, non so se... No Alberto, lei ha detto una cosa giustissima. Le posso dire, era esattamente la telefonata che mi aspettavo, perché non volevo fare una trasmissione basata su quanto sono aumentati i prezzi, quali sono le soluzioni alternative, non è lo spirito di questo programma. Esattamente lei ha toccato il punto. In realtà, noi abbiamo detto all'inizio che c'era una sorta di liturgia che scandiva il tempo negli anni precedenti, nell'idea che ci eravamo fatti della nostra imperitura e immarcescibile esistenza, per cui si lavorava, a un certo punto il lavoro aveva la sua pausa, si poteva essere spensierati per un periodo, ci si ricaricava e si ritornava al lavoro. Ma se la fase fondamentale che permette l'alternarsi di questo tempo, il tempo della vacanza e il tempo del lavoro, viene compromessa dal fatto che il lavoro è precario e incerto, con quale animo uno può pensare al tempo del sollievo quando non è sollevato nemmeno psicologicamente dal fatto che il lavoro ce l'abbia, e per tenerselo attaccato deve non solo lavorare ma nei periodi di pausa arzigogolarsi e scervellarsi di come poterselo mantenere. Questo che lei vuole dire? Esattamente, sì, sì, io tra l'altro ho semplicemente la condizione di essere separato, sto pensando alla vacanza che farò con mia figlia, ma sto pensando a lei, quelle che dovrò fare io proprio, ho detto, boh, non lo so, probabilmente non farò nulla perché non ne ho veramente voglia, lei ovviamente è piccola, non è che ha la capacità di leggere il momento, quindi ha tutti i diritti che hanno i bambini, ecco, e quindi farà le sue vacanze, ma nonostante non abbia problemi, tra virgolette, economici, perché mi sento un privilegiato, ma non ho proprio voglia. Sì, però lei pensa, dice, magari è meglio che me li tengo da parte perché non si sa mai. Esatto, sì, magari più avanti, chissà, se mi ritroverò la voglia, perché è anche inutile spendere soldi e cose quando uno non ha l'approccio, poi io ho sempre fatto giri in Europa, magari in bicicletta, era bello anche organizzarli, non ho neanche voglia di guardare le mete, di guardare in bicicletta dove andare, cosa fare, dove campeggiare. Allora io, psicologico, ecco. Quello che dice Alberto è il punto di partenza per questa trasmissione dopo le informazioni della borsa. In realtà i dati di Confesercenti ci portano a pensare e a riflettere sul fatto che gli italiani non stanno pensando alla vacanza. Quali sono i motivi per cui gli italiani non pensano alla vacanza? Ce l'ha accennato il nostro ascoltatore, dice, perché fondamentalmente vale il tempo della vacanza se è corroborato e tranquillo e proficuo il tempo del lavoro. Quando non è così, passa anche la voglia di andare in vacanza. E poi, ammesso anche che ci siano i fondi, che si sia immagazzinato quanto necessario per fare la vacanza, uno ci pensa due volte perché non ha certezza di quello che accadrà domani, e l'autunno è vicino, gli autunni, si sa, sono sempre portatori di notizie non buone per quello che riguarda comunque il proprio bilancio familiare. Melog, la realtà condivisa. Io ho 65 anni, quindi negli anni 50 una famiglia non assolutamente non ricca, ma insomma che si poteva permettere 20 giorni di pensione a Forte dei Marmi, una pensioncina che io sono andato a ritrovare ma che non ho più trovato. E allora, costume di lanina che quando entravi in acqua ti segnava le cosce perché dava fastidio. Mio padre, una persona adorata, che però di una certa età, che faceva il bagno con una bandana nera perché pelato se no si ustionava. Noi possiamo anche ridere delle nostalgie degli anni passati, perlomeno erano ricordi comuni, condivisibili e trasferibili. Ma quali saranno i ricordi delle vacanze di chi ha come modello principale, come imprinting, le vacanze di questi ultimi anni? Beh, questo sarà l'anno nero delle vacanze, Confesercenti ci dice che non le farà quasi la metà degli italiani. Beh, quali sono i motivi? I motivi sono tanti, ma quello principale, mi sembra di aver capito, è il disinganno, la poca voglia di scandire il proprio tempo in un tempo dell'operosità, in un tempo della vacanza. Perché? Perché non c'è più modo di essere operosi. Luigi, buongiorno. Signor Nicoletti, complimento alla trasmissione che la seguo tutti i giorni. Bravo. Allora, io è da 4 anni che ho smesso di fare le vacanze qua in Italia, perché da quando è cominciata la crisi è una cosa spaventosa. I prezzi aumentano, c'è sempre a mano al portafoglio. Io sono assieme a una compagna che è moldava e ho cominciato ad andare a fare le vacanze il mese di agosto o luglio o agosto, andare nel suo paese, e ho visto e ho notato che là ci sono talmente tanti villaggi immensi, zone immense estese di verde, e hanno costruito dei laghetti per i pescatori, piscine per bambini, ci sono dei mini market dentro, e da 2 anni a questa parte hanno cominciato a costruire delle prefabbricati, delle casette prefabbricate per poter abitarci una settimana, 10 giorni o il fine settimana. Beh, quello che in Italia veniva fatto dagli anni 60, primi anni 70, esattamente. Esatto. Quello. Però i costi là sono talmente bassi. Io l'anno scorso, vabbè che ho anche viviamo anche lì con le figlie, però abbiamo prenotato per 2 settimane in questo villaggio una casetta per io e la mia compagna, per rilassarsi, posti tranquilli, abbiamo speso di 2 settimane 120 euro di affitto di questa casetta, che ha tutti i comfort, come tipo una baita di montagna. Ciò vuol dire che con 200 euro... Lei dice che è anche una questione di fantasia, se uno uscisse dalla profonda depressione, in realtà a conti fatti si spenderebbe molto meno di quello che uno si pensa. Ma quindi vede, lei mi conferma però quello che sta emergendo dalla trasmissione, è un blocco di tipo psicologico, è un serpente che si mangia la coda, più è lontano, più è vicino il senso della disfatta, della fine, del tracollo, e meno le persone vogliono investire anche nel proprio benessere. Fabrizio. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Salve, io ho una storia un pochettino che va un po' fuori da forse le ultime telefonate. Vabbè, così variamo, no? Ecco, sì. Io, vabbè, a parte che le mie vacanze sono sempre state legate a passioni, no? Soprattutto sportive. Per rilassarmi sto benissimo a casa, quindi se c'è un evento sportivo importante mi prendo anche una settimana volentieri per seguirlo. Ma il punto della telefonata è che io da 10 anni non faccio ferie. Io ho una piccola azienda nell'agroalimentare, un'azienda di famiglia che hanno costruito mio padre e mia madre con tantissimi. Lei dovrebbe darsele se stesso le ferie, non è che ha un, padrone che le dà le ferie, sì, decide infatti, lei. Infatti. Si vede che non è aria da andare in vacanza, probabilmente è questo. È proprio per questo che devo darmele da solo, sono 10 anni che non le faccio. Ma l'evento qual è? L'evento è che io a settembre, adesso ho chiuso il punto della situazione, in accordo con i miei genitori che erano i primi che dovevano dirmi che gli piaceva questa scelta, a settembre chiudo l'azienda. E creerò purtroppo circa un 40 nuovi disoccupati, e da settembre in poi per me inizierà un po' di vita buona, un po' di vacanze. Farò un lavoro piccolo insieme a mia figlia, a mia sorella, un qualche cosa che ci permetterà di vivere tranquillamente. E proprio ieri sera, l'evento che ci sto pensando da quando mi sono svegliato questa mattina, ho detto a mia figlia che a Natale la porterò a Londra, perché gliel'ho promesso da quando aveva 5 anni. Non ho mai mantenuto questa promessa. Certo. Gli ho garantito che quest'anno a Londra la porterò. Il motivo scatenante glielo dico al volo. Da gennaio sto chiedendo 200.000 euro a tutte le banche che conosco di prestito di conduzione per non far soffrire i miei clienti, per non stressare i miei clienti, per non far soffrire i miei fornitori, a fronte di 6 milioni di euro di capitali sui quali potrebbero mettere tutte le ipoteche che vogliono, e non glieli danno. Non sono riuscito ad ottenere 200.000 euro di prestito. Ma lei lo dice, a questo punto sono stanco. Fabrizio, lei lo dice per provocazione, cioè chiudo l'azienda. No, io sto raccontando la mia storia. Non lo dico con provocazione, lo dico perché il ragionamento che sto facendo io lo stiamo facendo in tantissimi. Io conosco tanta gente che fanno il mio lavoro, che parliamo di queste cose, ma tranquillamente, cosa che dire un anno fa, chiudo l'azienda, oh ma che sei matto, ma non esiste, ma di qua, ma di là, cioè, è una cosa pazzesca, assurda. Oggi parlare con colleghi, parlare con concorrenti, parlare con gente che fa lo stesso lavoro e dire senti, io quasi chiudo, io già ho chiuso, io sto chiudendo, cioè, capito? Siamo migliaia di aziende, di piccole imprese così che stiamo... Lei magari farà questa operazione di downshifting, cioè abbassa il suo tenore, la sua attesa di benessere, dice io posso vivere anche più modestamente, finalmente mi metterò in vacanza, smetto di lavorare duramente, però lei pensi, le persone che rimangono per strada fanno parte di quella percentuale di italiani che tutt'altro hanno in testa che pensare alle vacanze, quelli appunto registrati da Confesercenti. Addosso e poi devo suicidarmi perché non posso dare... Deve suicidarsi. Capito? Ecco. Perché quelli che si stanno suicidando sono gente come me. Sono quello che potrei diventare io tra un po', capito? Allora dico, senti, prima che qualcuno si mangi i sacrifici dei miei genitori, fermiamoci. Dice, almeno io posso, con meno ma andrò in vacanza, poi gli altri Dio provvede. Beh, è un suo punto di vista. Fabrizio. Fabrizio ha parlato, Nicola. Pronto? Sì, Nicola. Buongiorno. Senti, parto da questo signor Fabrizio che ritira i remi in barca per farsi le vacanze. Ecco, bisognerebbe dire anche a questi magari imprenditori ancora che hanno un senso di società che tanti di loro però hanno preso soldi in banca non restituendoli e mettendo le banche in condizioni di grossi forme di insolvenza, per cui le banche si trovano in difficoltà. Sì, ma detto questo, anche... non voglio fermarla, no. Ma vorrei tornare sul discorso. Sì, tutti sul questi discorso... sono elementi. Aspetti, Nicola, sono tutti elementi che portano a pensare che la testa sta altrove in ogni caso. Certo, sia l'imprenditore che chiude bottega e dice basta, tiro remi in barca, sì, sia sì. La persona che è l'esito nefasto di questo tirare remi in barca, perché poi oggi si trova fra i numeri della Confesercenti, tutt'altro ha da pensare le vacanze. Certo. Quindi è il clima generale che uccide l'idea di vacanze. Senza dubbio Nicoletti. Comunque io ho chiamato perché a mio parere il primo grande errore che è stato fatto in questo paese è stato quando si è passati dalla cosiddetta moneta liretta a quella che doveva essere la moneta pesante, sì, cioè l'euro. Ho capito. E che in teoria, Nicola, avrebbe dovuto, sì, metterci in condizioni di avere una moneta forte e quindi fare dei passi, sì, avanti nello sviluppo generale. Posso dire una cosa, scusi? Invece, no, no, Nicola, mi faccia parlare, scusi. La trasmissione è un argomento. Io rispetto quello che lei dice, non ho in questo momento argomenti per riflettere su questo, perché sto parlando di un'altra cosa. Sto dicendo, tutto questo probabilmente fa parte del grande bagaglio per cui gli italiani oggi non hanno voglia di andare in vacanza. Ora, la ragione diretta cambio della moneta unica e via dicendo può essere che abbia la sua parte, ma in questo momento la percezione generale non è così dettagliata la cosa. Non vorrei trasformare un chiacchierare sul qualunque su una vicenda che invece secondo me mi sta molto a cuore. È la voglia precisa e determinata di staccare, non c'è più, perché non si sa da cosa staccare. Grazie. Buongiorno. Vediamo se riusciamo a riportarla nei termini. Parliamo di vacanza negata, parliamo oggi. Oggi no, io allora ferma un attimo, grazie. Melog, la realtà condivisa. 800240024, siamo partiti dall'analisi di un dato, di una ricerca fatta proprio recentemente da Confesercenti, per cui la metà degli italiani nemmeno pensa di andare in vacanza. Dalle reazioni del pubblico, da quello che leggo negli sms, mi sembra che in realtà è un tema di cui non si parla volentieri o non si parla in maniera sincera. Che poi tutti prendono l'occasione per riprendere in mano l'idea che ognuno possa, come una volta si parlava delle partite di calcio, parlare di economia, parlare di politica, parlare dei grandi problemi, ma nessuno va al punto essenziale, perché gli italiani non pensano più ad andare in vacanza, anche se abbiamo un altro punto di vista. Qualcuno mi scrive come sms se gli italiani in media spendono 5 euro al giorno per gratta e vinci, dice io non le compro, con 1500 euro vado in ferie. Molte volte l'idea di una rottura periodica durante l'anno è sostituita con tante piccole rotture quotidiane, rotture di livello, il gratta e vinci, la speranza, l'idea di una vacanza, l'idea di un investimento verso qualcosa che potrebbe dare speranza nel futuro. Beh, comunque, mentre io stavo parlando, Fabrizio Intonti e il professor Valerio Rocchetti hanno fatto un esperimento, sono collegati a uno dei tanti portali nei quali si possono acquistare viaggi, vacanze, nello specifico era booking.com. in 5 minuti 75 persone comunque hanno prenotato una vacanza. Claudio Albonetti, che è presidente dell'Assoturismo Confesercenti. Lei cosa registra le telefonate? A me mi sembra che in realtà non ci sia molta voglia di dire sinceramente quello che si pensa riguardo a questo problema. Se poi alla fine gli italiani ci andranno lo stesso, tireremo un sospiro di sollievo, o lei pensa che in realtà queste cifre che voi avete pubblicato sono realmente una profezia rispetto a quello che accadrà? Ma guardi, io penso questo, la voglia, o meglio la necessità di fare vacanza c'era e c'è. Ci sono due fattori limitanti fenomenali, il primo è la mancanza di risorse per poter fare vacanza, e questo mi sembra che sia emerso abbastanza chiaramente. L'altro fattore limitante, forse anche più preoccupante, è il fatto che non c'è certezza su quello che accadrà. Non si vede la luce alla fine del tunnel, e questo stato di insicurezza mette anche coloro che avrebbero tutto sommato le risorse per fare una vacanza nella condizione di dire cosa faccio, vado in vacanza oppure li risparmio questi soldini. Dal momento che, beh, io la metto così, che noi in questo stato siamo in recessione e in difficoltà ormai è evidente da alcuni anni, È altrettanto evidente da alcuni anni che non si sta prendendo uno straccio di contromisura, diciamo così. Si parla, si rimpasti, governi tecnici, governi pseudopolitici, ma come si può, contromisure. No, quello che dice lei conferma la mia impressione, ma è anche preoccupante. Non c'è più nemmeno il desiderio di dire, io fino all'anno scorso ho fatto trasmissioni simili, c'erano gli escamotage, la gente che studiava, si metteva a tavolino, andava in rete, cercava, trovava la soluzione più alla portata delle sue risorse. Oggi no, le risorse se le tengono attaccate sotto l'unghie, poche o tante che siano, dicono ma stringiamo la cinghia, oppure non pensiamo di aver bisogno di un momento di uscita dalla routine. Perché? Perché la routine evidentemente tormenta giorno e notte. Sì, si vagheggia la benedetta crescita, ma in realtà continua la decrescita. E allora in questa situazione evidentemente c'è un modo più oculato e consapevole di spendere i propri denari. Quindi già in vacanza non ci si va perché ci sono pochi soldini, quando ci sono si ha paura di cosa accadrà, di quello che succederà domani, e quindi insomma i giochi sono fatti. Ma io non penso che non ci sia voglia di vacanza, perché la vacanza, come risulta dal nostro sondaggio, è una necessità dell'individuo. Semmai mi chiedo una cosa, se mi consente l'ultima battuta. In una situazione di così grave emergenza, con le imprese alla canna del gas, le famiglie che non ce la fanno più a tirare avanti, eccetera, visto che parecchi hanno dichiarato che ricorreranno al debito pur di fare una vacanza, mi chiedo se non sia il caso che il governo intraprenda una decisione, un finanziamento urgente dei buoni vacanza, cosa sicuramente gradevole, che può permettere a un certo numero di famiglie. Certo, i soldi dove li prende sarà il gran problema, perché anche i buoni vacanza, sì, capisco, ma abbiamo problemi. Abbiamo fatto tempo fa una trasmissione, un responsabile della più grossa mensa per poveri di Milano diceva che il 50% dei suoi ospiti quotidiani erano italiani, molti erano famiglie stesse. Quando il problema diventa quello del quotidiano nutrirsi, il buono vacanza sembra già qualcosa che appartenga a un'altra epoca. No, speriamoci un istante, sentiamo qualche altro ascoltatore e poi la faccio concludere. Ivan. Pronto? Velocemente, sì. Io sono da Modena, niente, volevo solo dire, io sono disoccupato da un anno e mezzo, la mia compagna lavora a tempo determinato, in pratica annuale, io ovviamente di andare in vacanza voglio poco e niente, perché andare in vacanza deve essere secondo me qualcosa che ti permette di distrarre, però se non hai niente da cui distrarti, anche quello diventa un'opera abbastanza inutile. O perlomeno ci sono pensieri che non basta una vacanza per togliersi di dosso, che uno se li troverà più tenaci quando torna. Hai 35 anni, dopo un anno e mezzo che stai a casa, ti fai conti su tante cose, non ce l'hai proprio la voglia di dire cavolo, io vado, andiamo fuori Italia, però è una spesa di cui si è occupata tutta la mia compagna. Quindi lei delega tutta la compagna, grazie, buongiorno, grazie, è caduta Giuseppe. Buongiorno, grazie, velocissimo visto che siete in chiusura. Io volevo solo fare un aspetto, una presentazione puntuale. Io non sono di Viareggio, ma abito a Viareggio e mi sembra che in tutta questa trasmissione non sia mai emerso, però anche quello che per me è uno, non il punto unico, però uno dei punti più importanti. Lo faccio emergere adesso, visto abbiamo ci provo. Cioè, per Viareggio c'è un degrado assoluto, cioè uno va in vacanza anche per vedere un posto migliore o quantomeno non più brutto di quello dove vive. Viareggio in 10 anni è diventata da una città tutto sommato gradevole, una città che ha di squarci di degrado medievale. Allora fermi un attimo Giuseppe, perché voglio dare il tempo all'ospite di rispondere. Viareggio è la situazione che conosce lei. Claudio Albonetti, ma non è che il fatto che in Italia non si è investito sufficientemente sulla qualità del turismo e all'estero trovano servizi migliori, quindi quelli che possono comunque se vanno fuori non viene nemmeno la voglia, nemmeno si è incentivati? Mi creda, se un cittadino ha voglia di vacanza, ama una località, in vacanza ci va anche a piedi, non è questione nemmeno di infrastrutture, non è questione di città che non hanno investito. Poi a me risulta che Viareggio sia una località ottimamente tenuta, una località di punta del nostro turismo, ci mancherebbe altro. C'è da dire sicuramente che le amministrazioni e i sindaci hanno problemi a non finire ultimamente, sappiamo tutti come cosa sta accadendo nelle amministrazioni con i quattrini che non bastano nemmeno per i servizi essenziali, quindi nemmeno per i servizi sociali, certo, è chiaro. Se mancano i soldi per i servizi sociali, investire sul territorio è difficile, ma come dire, la gradevolezza delle nostre località di villeggiatura è fuori discussione, anche perché poi i privati hanno investito consistentemente. No, i problemi sono altri. Sono altri, problemi, in parte li abbiamo lambiti, non è che li abbiamo risolti, ma abbiamo visto che in fondo ha una sua fondatezza questa vostra ricerca. Gli italiani in realtà la voglia di andare in vacanza ne hanno sempre meno. A domani.